studiare. Che brutto è vita la liceo, che brutto è vita la liceo. Per studiare, studiare 15 anni, studiare, per cui